se un giorno ci fossero le basi per tornare all'Inter, io tornerei anche all'Inter, perché no? Non è un problema. Mario scrive il suo futuro. Il futuro di Mario ce l'ha nelle gambe. Lui decide, è l'unico giocatore che potrebbe vincere il pallone d'oro 2, 3, 4 volte. Messi veramente deve stare attento. Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. I tifosi dovrebbero stare tranquilli. E poi deve essere una squadra che punta in alto. Tutti convocati. Di Carlo Genta. Ho detto presidente assolutamente convocato. Ragazzi, ripartiamo da ieri. Intanto, oggi quale nuovo messaggio arrivato prima ancora dell'inizio del programma? Quale nuovo show ci hai preparato? Ballo Story, Raiola Story, Reality da Giannino, Le Confessioni di Briatore, oppure si riuscirà a parlare di calcio vero? Caro Pippo da Piacenza, in attesa che mi spieghi cos'è il calcio vero, io vado avanti così perché questo e anche questo è il calcio, no? Non siete d'accordo? 800240024, il calcio è anche questo, cioè ieri a Milano non è arrivato un giocatore, ma una rockstar. Le immagini le avete viste tutte, poi ovviamente ci sono stati i soliti episodi all'italiana, inqualificabili e immancabili. Oggi Balotelli ha firmato dopo la gazzarra fino al 2017, 7,2 milioni lordi a stagione, più 1,8 milioni sempre lordo in caso di raggiungimento quest'anno della Champions League. Subito in vendita le magliette, addirittura le penne della firma, indispensabili feticci. Stamattina a Milanello, test atletici, questo per la cronaca. A Parigi a qualche emiro è venuta l'invidia e hanno preso anche loro una rockstar molto più stagionata, e non sto scherzando. David Beckham giocherà nel Paris Saint-Germain di Carlo Ancelotti. Non è uno scherzo, giuro, è ufficiale, c'è la conferenza stampa di presentazione oggi, mentre quella di Balotelli sarà domani pomeriggio. Ancora libero sul mercato Mick Jagger. Non l'ha ancora preso nessuno. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Beh, credo che non ci sia bisogno di presentare Mario Balotelli. È un sogno che si realizza, un sogno che volevano i nostri tifosi, che ha voluto il presidente Berlusconi fortemente, che ha voluto tutta la società. Pensiamo che con l'arrivo di Mario rafforziamo molto la nostra squadra e siamo felici, ci abbiamo lavorato tanto perché Mario è nei nostri cuori da tanti anni e finalmente ci siamo riusciti. Era molto tempo che volevo giocare nel Milan, poi ovviamente giocavo in un'altra squadra e quindi non potevo venire qua, però adesso ho avuto la possibilità e sono corso. Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene col City e vengo qua per rifarmi e fare bene. I'm so happy that you're mine. Qui dai nostri tifosi, che coro vorresti ti facesse? Milano è inondata da Balotelli, ce l'abbiamo noi. Basta che mi vogliono bene, io riesco a ricambiare, sono a posto. E dunque, questo non era Mick Jagger, che ripeto resta sul mercato se qualcuno lo vuole ingaggiare. Seriamente io parlo invece con Enrico Currò, inviato di Repubblica, che ha seguito tutta l'arrivo della Madonna Pellegrina Mario Balotelli. Ciao Enrico. Ciao Mario. Come Mario? Pronto, scusa, ciao Carlo. Sì, stiamo bene. Sono stato condizionato da... Questa meravigliosa me la tengo, Ciao Mario, ciao Mario, me la tengo. Senti Enrico, è arrivata la rockstar, adesso aspettiamo il giocatore. Sì, questo è il vero problema poi di questa vicenda, perché di Balotelli da quando fa il calciatore si è parlato per l'80% per le cose fuori dal campo e per il 20% di quelle in campo, e sarebbe ora forse di ribaltare almeno le percentuali. Sì, anche se io, come dite in molti, voi che ne sapete parecchio più di me, la grande occasione, forse l'ultima, pur avendo 22 anni, Balotelli, io penso che la fiducia e la certezza di un posto, invece dell'incertezza che regnava a Manchester, pure dal suo papà putativo, non so fino a che punto, Mancini, fosse una delle ragioni che, come ho detto ieri, mandavano Mario fuori di testa più di quanto non sia. Sì, può essere, però è anche vero che alla fine Balotelli a Manchester aveva ipoteticamente tutte le condizioni ideali proprio per le ragioni che hai detto, cioè il padre putativo Mancini era veramente un padre putativo almeno all'inizio, poi alla fine si è arreso anche Mancini, quindi vuol dire che Balotelli effettivamente non ha sfruttato le occasioni che ha avuto finora. Io non so se è l'ultima, non sarei così definitivo, perché mi sembra che il calcio, però è grande, di oggi ne, però è ne conceda parecchie. Però è grande. È una grandissima occasione, questo sì, ed è un'occasione anche legata al fatto che Balotelli tutto sommato è arrivato dove voleva arrivare alla fine. Sono anni che lui, anche quando giocava all'Inter, faceva capire che la sua destinazione preferita sarebbe stata il Milan, ci è riuscito. In questo momento Balotelli gioca nelle sue due squadre preferite, il Milan e la Nazionale, ci sono tutte le condizioni per riuscire, se non riesce credo che sarà soprattutto colpa sua. Oggi scrivi su Repubblica, in articolo di apertura della pagina sportiva, l'affare Balotelli, voti e marketing aspettando i gol, così è scattata l'operazione Milan. Ieri sera gli inviati del Fatto Quotidiano hanno fatto un giro tra l'esagerato numero di persone che c'erano ad attendere Balotelli, e c'è stato uno che ha risposto così. Però se Berlusconi dovesse diventare premier, vogliamo almeno Galliani presidente dell'economia. Elezioni ogni sei mesi, così Milan diventa la squadra più forte del mondo. Ma chi dice che sotto elezioni si compra meglio? Elezioni di mercato e regalino ce la fa, così. Sentito? Mi sai dire. Sì, beh, insomma, mettiamola sullo scherzo che è meglio, perché ma certo, che le elezioni possono essere davvero anche in parte condizionate dall'acquisto di questo o di quel giocatore, nello specifico di Balotelli, e insomma è abbastanza triste per un paese democratico comunque. Lo so, ma siamo fatti così. Intanto il proprietario del Milan ieri sera ha smentito, ha detto no, una risposta preconfezionata. Balotelli ha fatto due gol alla Germania, ha fatto piangere i tedeschi, Monti ha fatto autogol. Comunque sarà, Enrico, sarà marketing, sarà un po' politica, tutto questo certamente, ma c'è anche molto calcio in questa operazione, mentre io sono convinto che con Kakà esplorato, e soprattutto con Drogba, che secondo me era una sorta di depistaggio, sarebbe stata pura demagogia. Io non lo so questo, tutti i calciatori hanno delle caratteristiche che possono più o meno adattarsi alle condizioni della squadra in quel dato momento. Credo però che, come dici tu, ci sia molto calcio in questa operazione, proprio nel senso che al di là del marketing, al di là della politica, qui stiamo parlando di un giocatore di 23 anni, ancora da compiere, sì, che agli europei sostanzialmente, anche se a tratti, ha fatto vedere di poter fare la classica differenza. Sì. Quindi un calciatore che in questo momento è potenzialmente, insieme a El Shaarawy, e il Milan ha fortuna di averli tutti e due, il massimo talento in circolazione del calcio italiano. Assolutamente d'accordo, è il massimo talento in circolazione del calcio italiano. Diciamo che appunto c'è molto calcio, c'è molta curiosità, c'è molta anche bellezza in questa operazione, nel fatto che al di là di tutte le cose che stiamo dicendo che circondano l'operazione, al di là della circostanza che non va dimenticata che Balotelli praticamente quest'anno è come se non avesse ancora giocato, però tutti indistintamente tifosi e anche semplici curiosi, anche persone di calcio, stiamo aspettando di vedere con grande curiosità che cosa succede sul campo, cioè questi due, aggiungiamoci pure Niang se vogliamo, questi tre, che cosa possono fare insieme. Ed è una cosa sinceramente bella, perché era parecchio tempo che nel campionato italiano non c'era un'attesa del genere per un giocatore, per una squadra, per complici, un evento. Complici mille motivi, complici passaggio dall'Inter al Milan, del più grande talento italiano venduto in Inghilterra, riportato a casa da Galliani, ministro delle finanze, alla fine con 4 milioni di euro, perché poi vediamo cosa succede nei prossimi anni, può succedere di tutto. So che sono in ritardo sul traffico, ma prima di salutarti Enrico voglio da te un'altra considerazione. L'Inter risponde, gli interisti che rosicano, e non ci credo che non rosichino, perché è così, anche Moratti. Allora l'Inter risponde dandosi una bella svecchiata e prendendo Kovacic. Secondo me operazioni intelligenti, perché l'Inter è molto indietro sul piano di ricostruzione. Sì, sai, l'Inter ha scelto una strada abbastanza decisa negli ultimi due anni, poi che questa strada possa dare dei frutti bisogna vederlo, ci sono degli alti e bassi sicuramente fisiologici. Ha scelto di non spendere, di non spendere e espandere come succedeva prima, ma di spendere teoricamente in maniera oculata. Poi però è chiaro che mentre Balotelli comunque è un calciatore, un talento conclamato, con tutti i suoi difetti, con tutte le cose che sappiamo e che non è il caso di ripetere, nel caso dell'Inter invece questo Kovacic per il momento è ancora un incognita. Sì, certo, certo, quindi certo, è chiaro certo. Che le due operazioni hanno un peso diverso, bisogna vedere però se alla lunga l'operazione che ha fatto l'Inter, non mi riferisco soltanto a questa specifica ma in generale il mercato dell'Inter, non sia stato un mercato che ha badato prima di tutto a questo famoso fair play finanziario che sta condizionando in parte anche in positivo il mercato dei grandi club, sì, questo italiani. Certo. Questo certamente, ma mi sembra che l'Inter condizionata più di tutti è questo, non da sta stagione. Enrico, ti ringrazio, alla prossima. Ciao Mario. Ciao. Ciao. Questa era voluta. Bellissimo. Adesso aspetto voi. 800 24 00 24. Non sono Mario, ma sono qui. Traffico. Buongiorno a tutti. Notizie del traffico? Dobbiamo dare la linea al traffico? Pensavo di aver dato i tempi vostri. Tutti convocati. Ciao Mario. Ripeto, non sono Mario. Sono Carlo Genta, ma sono qui e voglio parlare con voi. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Andrea, non vale però, non rosico perché il calcio non ha più senso di essere come il ciclismo, anzi mi fa piacere. Andrea, ex interista ed ex calciofilo, da ex interista ex calciofilo, non vale questa dichiarazione, se ne renderà conto anche lei che scrive. Massimo, Livorno, Leonardo, Milano, Silvestro, Brescia, primi tre convocati di oggi. Ciao Massimo. Buongiorno. Buongiorno. Senta, prima di tutto una curiosità, vorrei sapere, ma Balotelli può giocare la Champions? No. Non può, quindi è un acquisto del Milan. Beh, sì, c'è questa doppia sfida col Barcellona, dire. Poi ne parliamo anche, perché oggi abbiamo convocato anche appunto il nostro amico dalla Spagna. Volevo dare un'informazione a lei, che evidentemente io vengo da Livorno, quindi una città storica che lei sa, della sinistra, dove è stato fondato il Partito Comunista e tutto il resto. Conosco. La sentì dire come si fa quando c'era questi attriti fra Allegri, la dirigenza, Berlusconi e tutto il resto, la sentì dire che forse il fatto che Allegri venisse da Livorno poteva darsi il fatto di configurare Allegri come un sinistroide o una parte. Le posso assicurare che ciò detto non è io. Assolutamente vero. L'ha detto io. Non ha detto proprio esplicitamente, insomma, ha fatto capire che insomma dove è. No, ma evidentemente. No, ma le lo dico così. I was joking, stavo scherzando. Però questi scherzi, questi giochi di così di parole, di suggestioni ci stanno, no? Il livornese Allegri alla corte di Berlusconi ci può anche stare. Mi assicura invece che niente. Prego. Mi assicura invece che stava dicendo? No, non è di sinistra. Va bene. Non è di sinistra. Fatti suoi. Sicuramente è più vicino alle idee berlusconiane che della sinistra. La terza, le volevo dire, è strana questa considerazione. Un altro talento del calcio, come può essere Cassano, come è Cassano indubbiamente, ha avuto bisogno di anni per poi andare, almeno sembra, a una sua maturazione, a una sua completa anche inserimento in quello che è il calcio e tutto il resto. Io penso che tutto ciò dipenda da un problema anche culturale, proprio intimo, da sottoterra, sì, da una costruzione che è una persona, cioè che mi fa veramente specie che un calciatore che arriva in una città la prima cosa si preoccupi è della macchina, insomma, cioè, tutto ciò mi dà la configurazione, sì. No, io mi auguro, io tipo Prelli Vorno, quindi è fuori dai giochi, porta poco, insomma, Massimo, però io non insisterei su questo, nonostante sia molto, molto in voga su questo parallelismo tra Balotelli e Cassano, perché sono due personaggi anche per estrazione sociale, anche per estrazione sociale, anche per cultura, per nucleo familiare, sono due persone parecchio diverse. Balotelli è molto giovane, ha fatto un sacco di stupidaggini. Io credo che questa sia la sua grande occasione, magari prima o poi diventerà da ragazzino un uomo. Credo che la responsabilizzazione dal punto di vista calcistico di Balotelli possa fare molta differenza, cioè nel senso che se si sente titolare fisso, indiscutibile, come è stato agli europei, nonostante le prime non soddisfacenti partite, davvero Balotelli possa diventare uomo e da grande prospetto, da grande talento, forse fuori classe, anche se con questa parola bisogna andarci piano. Leonardo Milano. Eccomi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao. Leonardo, milanista? Interista, quindi non era davanti a Giannino ieri. Assolutamente no. Chiuso in casa, blindato. Rosica? No, rosico felice. Come rosica felice? Felice, e ti spiego perché. Spiegamelo. Perché non aveva futuro in Italia Balotelli all'Inter, mentre invece quando tu indossi la maglia giusta, la tua carriera può svoltare. Non fare troppo romantico. No, aspetta. Balotelli è persino stato accusato di essere lui che provocava i tifosi per il razzismo, ok? Con questa maglia e con la protezione che avrà non succederà niente e Balotelli avrà vita facile. È felice perché? Avrà vita facile perché ci sei felice perché? Ah, io felice per lui, perché per lui è un campione, perciò deve scoppiare fuori. Bravo. Poi ti fa gol nel derby, viene a esultare sotto la curva. E poi Speriamo di no, però vabbè, questa è una considerazione intelligente, ma infatti io da osservatore del calcio e da tifoso della nazionale come Prandelli sono molto felice innanzitutto che Balotelli torni in Italia. È un giocatore che mi diverte, è un personaggio e i personaggi a me divertono, quindi inutile star lì. Di conseguenza sono molto contento che torni, poi vediamo cosa combina nel Milan, poi vediamo qual è la sua squadra. Intanto io non credo che ci sia un solo tifoso interista che non stia in fondo rosicando, anche se non lo ammette nemmeno a se stesso, e non credo neanche a Moratti quando parla in questo modo. Un buon acquisto, certo che era un acquisto che non potevamo né dovevamo fare essendo già stato da noi Balotelli precedentemente, quindi è una scommessa del Milan e vedremo. Io devo essere sincero, sono molto tifoso interista, ma rammarico non ce l'ho. Vedo questa cosa come qualche cosa utile a Berlusconi per mille motivi, poi vedremo come andrà a finire. Chi ci crede alzi la mano, chi ci crede, non vi vedo, però fate così, chi ci crede alzi la mano e telefoni, 800 24 00 24, numero verde, i protagonisti sono sempre voi. Mario, ciao Mario, mi ha preso anche Peffondelli, Enrico Currò, Silvestro da Brescia. Buongiorno signor Genta. Buongiorno signor Silvestro, ma sempre tutti. Prima cosa sono veramente i complimenti perché lei ha sdrammatizzato questo mondo che non se ne può più. A partire da quelli che ieri sera sono andati a rompere le scatole, ma dai ragazzi, basta. Andare a manifestare allo stadio, la gioia al limite, ma basta questi casini. Ma sì, ma Silvestro, ma ha ragione, ma andare lì davanti di notte, perché la mattina probabilmente non avevano niente di meglio da fare, Ma sa che mi sa che ha ragione? Se stamattina si dovevano svegliare alle 5:30, per partire alle magari non andavano lì a far casino a vedere Balotelli in maglietta bianca. Esatto, una cosa. Sì, io mi auguro che Balotelli veramente metta la testa a posto, perché io sono di Brescia e me lo ricordo che è sempre stata una testa matta anche da ragazzo. però se fa la metà di quello che hanno fatto i giocatori che dall'Inter sono passati al Milan, mi sa che possiamo vincere di tutto. facciamo un elenco? Appunto, signor Gente, lei lo sa meglio di me, che è il suo lavoro. Se è qualcuno che ti ha fatto qualcosa? Pirlo, Seedorf, eccetera, ecco. Eccetera. Andiamo avanti. Ecco, appunto. No, vabbè, ma al di là di questa suggestione, che comunque è forte, perché perché io credo che comunque, al di là di quello che avessero da fare stamattina tutti questi che si sono presentati ieri sera davanti ai ristoranti o in giro per Milano, cioè la suggestione forte è questa: Balotelli è personaggio, Balotelli è ex interista, fa parlare in tutte le maniere, Balotelli è un donnaiolo, è uno scassamacchine, è uno scassamaroni qualche volta. Fa lavorare un po' di gente, è un grandissimo giocatore, ecco, è una suggestione troppo forte. È la rivincita sull'Inter e magari su tutti gli altri dopo la grande depressione estiva, è tutte queste cose e molte altre di più che mi vengono in mente, ma è inutile che le dica. Aspetto voi per dirle. 800 24 00 24, numero verde dopo la borsa. Sono arrivato in una squadra al top, quindi insomma una squadra come il Milan insomma non si può mai dire di no. Ciao Mario. Tutti convocati. All'800240024 naturalmente, tutti convocati ogni giorno. C'è chi scrive: due interisti. Io non rosico, Bala ha buttato la maglia per terra, voleva il Milan. Spero non segni nel derby, ma la vita continua. Antonio da Brescia, ma ci mancherebbe che la vita non continuasse, viva Dio. Mi sembra un po' rosicante questo messaggio, così come mi sembra rosicante questo interista di Roma. Alzo la mano, io sono felice che sia andato al Milan, che compra il più grande talento discontinuo e sprecato del calcio italiano. Al derby verrà espulso al 20esimo. Antonio, lei rosica, interista di Roma. Ma quello che ho sentito prima mi sembrava vagamente, prima di interromperci, mi sembrava di aver riconosciuto Pazzini. È così, fammelo risentire. Sono arrivato in una squadra al top, quindi insomma una squadra come il Milan insomma non si può mai dire di no. Eh sì, Pazzini, insomma. Poi Gagliani ieri sera dopo la festa è andato a casa e ha detto: oddio Pazzini, gli ho promesso che non compravo un altro attaccante, 10 gol giocando senza tutta questa continuità sono tanta roba. E Pazzini è uno che la sbatte dentro, è un attaccante vero, non so se sia felicissimo. Allora gli ha telefonato e ha detto: pazzo, stai tranquillo che tanto giochi anche tu, poi vediamo come. Tommaso da e dove e quando. Tommaso da Bari, buongiorno. Buongiorno gente, complimenti a Radio 24. Grazie. Due cose: una, nonostante la nota abilità di Gagliani, come si fa a credere a 20 milioni per un giocatore come Balotelli? In che senso? Anche i prezzi in giro, oggi Belfodil è stato valutato 20 milioni. Vabbè, evidentemente il Parma non lo vuole vendere, perché se la Juventus dice ti do Quagliarella ed è trattativa di oggi per Belfodil e questi rispondono mi dai Quagliarella e 13 milioni, è evidente che solo un pazzo può fare un acquisto di questo genere. Cioè Quagliarella più 13 milioni per Belfodil, uno da rinchiudere può fare un affare di questo genere. Quindi è chiaro che il Parma non lo vuole vendere. 13 milioni per Balotelli è incredibile. E un'altra cosa ne pensa delle dichiarazioni di Armstrong di oggi sui ciclisti del passato? Grazie. Cosa ne penso? Quello è un argomento tosto, Tommaso da Bari. Armstrong ha detto che comunque il ciclismo è sempre stato contaminato dal doping, negli anni 30-40 si attaccavano ai treni, oggi si fanno di qualunque altra cosa, nessuna generazione pulita, quei figli di puttana si drogano tutti, ha detto Armstrong, tutti quelli che fanno il tour, un modo di dire io come tutti gli altri come me, perché punite solo me. Non è accettabile questo, perché sapete bene che qualche prova serve, ci vuole. Anzi, in Spagna sta succedendo un gran casino, di cui parliamo adesso. Filippo Maria Ricci, corrispondente del Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo, per fortuna del Barcellona, la Madonna Pellegrina Mario Balotelli, una parola sola. tutto attaccato, sbarcata a Milano come fosse i Beatles negli anni 60 o forse di più. Non ci sarà con il Barcellona in Champions League, se no sai che massacro, Blaugrana asfaltati. Tra l'altro Blaugrana che avevano avuto la possibilità di prenderlo Balotelli, no? Ti ricordi che fece un lungo provino, una settimana rimase nella cantera del Barça alla Masia e dissero sì sì ottimo, però poi chi lo gestiva sparò un prezzo altissimo e avevano qualche dubbio anche a livello caratteriale e lo lasciarono andare via. Sarebbe stato, insomma, magari riuscivano a raddrizzarlo loro, sarebbe stato un gran patrimonio per il calcio italiano. Ma secondo, vediamo un po'. Secondo te quanto vale? Cioè non quanto vale economicamente, ma quanto vale Balotelli? Io penso che sia il più grande talento del calcio italiano. Continuo a pensarlo fino a smentita definitiva. Ci siamo già passati, secondo me, perché quando Cassano va alla Roma, cos'era, 60 miliardi, quanto lo pagarono? Ho rimosso. Eravamo più o meno nella stessa situazione. Cioè, si trattava di un grandissimo giocatore, con un talento fuori dal comune, fuori dall'ordinario e una testa anche molto fuori dall'ordinario. vediamo cosa prevale. Se vince il talento, cioè possiamo vincere il mondiale. Se vince la testa un po' strana, niente, no, avremo un altro. Ma io sono convinto, mi ripeto continuamente e mi scuso con gli ascoltatori, però credo che la responsabilizzazione che possa derivare da una maglia di titolare fisso sia la chiave giusta per, sì, anzi il cacciavite è giusto, no, per avvitare le viti svitate. Secondo me siamo no, qui non è sufficiente, sei troppo buono, insomma, non so come vediamo, dire. Vediamo. Ci sono altre cose in ballo, ha una testa molto particolare. La maglia non è sufficiente per maglia no, non sono mica un romantico, mai stato romantico in vita mia. No, ma ascolta, ti faccio voglio parlare di doping. Io voglio parlare di doping, naturalmente. Io però prima voglio, per farti divertire, sentire cosa ha detto poco fa Sky Mino Raiola. Ma l'hotel è un bene culturale, certo. Infatti abbiamo diminuito il valore della Premier League del 50%, abbiamo aumentato il valore del Serie A col 50%, no? Infatti sto qui discutendo i diritti televisivi, cioè vogliamo anche una percentuale di diritti televisivi che sono aumentati, ma tutti i club devono ringraziare adesso, perché almeno la Serie A è diventata un pochino più appetibile. Ragazzi, non ci sto più dentro, fa l'ironico anche lui come Conte, aumentati i diritti la Serie A è aumentata di valore del 50%. La Vabbè, come Premier League sicuro, è diminuita, come attenzione sicuramente, ma è cosa, aumentata l'attenzione, no, della Serie Italia in maniera clamorosa. Filippo, la Serie A vale il 50% di più perché è arrivato Balotelli, la Premier League 50% di meno, stiamo trattando i diritti televisivi. Perché poi vogliamo grande, la percentuale grande, cioè, abbiamo sentito prima qualcuno che voleva Gagliani ministro dell'economia, io vorrei Mino Raiola. Qualcosa farebbe. Se qualcuno mi viene a aspettare qua sotto mi dà un sacco, una manica di botte. Senti una cosa, ieri sera prima di passare a questa operazione Puerto che mi fa venire la pelle d'oca, Real Barça Copa del Rey, 1 miliardo di spettatori in tutto il mondo, 1-1, bella partita. Bella partita. Qualificazione non risolta. È una partita. Io oggi, insomma, io sono. Negli ultimi tempi sono stato sempre piuttosto critico con Mourinho per tutto quello che combina fuori dal campo. Però ieri ha dimostrato in campo di essere il grande allenatore che è e di saper trasmettere ai suoi qualcosa di importante. Ieri Real Madrid poteva finire asfaltato. Sia prima della partita, perché comunque c'era una differenza in campo, il Barcellona era al completo, al Madrid gli mancavano tra Casillas, Pepe, Ramos, Di Maria, Coentrao, insomma mezza squadra, diciamo quattro titolari importanti, e ha resistito molto bene giocando la sua partita. È chiaro, il Barcellona ha sbagliato due gol sull'1-0 clamorosi, se li mette dentro magari finisce in un altro modo, però il Madrid ha avuto le sue occasioni e ha fatto una partita per me di grandissima intensità, di grandissimo coraggio, sapendo di essere inferiore lasciava la palla al Barcellona, facevano, no, i loro bei chirigori, sono stati momenti impressionanti, questi si passano la palla come se fossimo, non so, contro una squadra di ragazzini, sembrava, erano come se giocassero con le mani, no, dominavano, impressionante. però gli lasci la palla e poi dopo quando ce l'hai tu provi a fare qualcosa e così. E poi hanno trovato, adesso si riaprirà un dibattito con questo ragazzino francese, sto Varan, 19 anni. Per me Sergio Ramos deve tornare a fare il terzino destro, perché non lo puoi lasciare fuori uno così. Sì. Questo diventerà uno dei più grandi difensori del mondo. Senti Filippo, c'è chi mi dà del giornalista di scuola Mediaset, non so perché, non lo prendo come penso un insulto, ma giuro non sono mai entrato a Mediaset in vita mia, non so neanche bene dov'è. No, io volevo parlare con te del demonio Fuentes, meriterebbe molto più spazio, però vicenda che stai seguendo, e ogni giorno leggo ciò che scrivi. Oggi non ci sono andato perché oggi finalmente chiuso dopo 3 giorni di tribunale. Allora, intanto per me è un'esperienza nuova molto interessante, devo dire veramente è qualcosa di, il personaggio anche lui è un fenomeno, mettiamolo così, insomma è assolutamente sopra le righe, lui l'ha sempre teorizzato, lo sport fa male, io aiuto i ciclisti o gli sportivi, no? Questa è la sua ha detto teoria, che lui ha dopato tutti e in quell'elenco c'era veramente c'erano non solo ciclisti, no. Ma allora il problema è, come io scrivo oggi, insomma, la Spagna è di fronte alla sua grande occasione, perché come spiega bene l'avvocato spagnolo che difende il CONI, no? Cioè che è la parte civile per il CONI, ok, qui non, la Spagna non ha, diciamo, nel 2006 non c'era neanche una legge antidoping, e per quello tu prima parlavi di Armstrong. Armstrong quando sente puzza di bruciato in Francia dove va? Viene a Girona, viene in Spagna, no? Allora, come tanti altri. Allora, non c'è la legge antidoping, quindi qua anche adesso c'è una legge, ma una legge molto blanda, insomma, se ti beccano con l'EPO, in Italia c'è un processo penale, qui no. Qui si accusa solo di delitto contro la salute pubblica, e questo lo sappiamo e va bene, però dice giustamente l'avvocato che è parte civile del CONI. Noi siamo qui tutti organi sportivi, ci piacerebbe che da questo processo venisse fuori qualcos'altro, ci fosse fornito del materiale che poi noi useremo per continuare la nostra lotta al doping, e questa è la chiave. E ieri quando la giudice, no, lui chiede, dice, glielo chiede lei se vuole identificare questi, no, la lista che c'aveva, e lei gli dice di no. Comunque in aula c'è stato un momento, poi ovviamente siamo lì tutti molto silenziosi, molto rispettosi, però c'è stato un brusio importante, allora noi diciamo le solite, la Spagna non gli interessa collaborare. No, o facciamo i nomi, o facciamo però i nomi. Finita, però non è finita, guarda, perché io so che in Italia non c'è tanta speranza su questo processo. Sì, questo ma è vero. Io invece io la coltivo, la speranzella me la coltivo. È un'occasione storica, sai, per la Spagna, Filippo. Come dicevi tu. Verrà a dichiarare Tyler Hamilton, che ha scritto di tutto, è un libro molto divertente, ma molto interessante, in cui parla di Fuentes, raccontando episodi spettacolari, che lui, era in macchina, a un certo punto si tira su una pasticca di anabolizzante russo e la prende al volo in bocca, per dire, no, questo è il personaggio Fuentes. Sì. Viene a testimoniare la testimonianza di Yashke, che è un altro che ha parlato molto chiaro di Fuentes, qualcosa per me verrà fuori. Non lo so, io ci spero, e qua c'è un'attenzione enorme, ci sono più di 50 giornalisti stranieri, o 40. Certo, la Spagna non sarà spiccia con un affare interno, è un affare che è sotto gli occhi del mondo, e quindi anche per questo dovranno anche gli stessi magistrati, anche le stesse autorità spagnole fare molta attenzione. Filippo, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Ciao. Grazie Filippo Maria Ricci, traffico, poi... Voglio sentire un paio di Zeman e poi allunghiamo il pallone. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata. Adesso devo andare a cercarla nei prati. Tutti convocati. Qui sempre per voi, 800 24 00 24, anche su Twitter, interisti come Mattias, ma perché dobbiamo rosicare, lo abbiamo detestato dopo Inter Barcellona e ha fatto meno gol di Floccari in vita sua. Poi facciamo i conti però, Mattias, adesso aspettiamo un attimo. Stefano su Twitter, nuovo conduttore, Mario, gente, molto meglio del vecchio, ovviamente. Ciao Mario. Qui è Curro che mi ha preso per il naso. Allora, prima di allungare il pallone, come ho detto, perché c'è 6 nazioni e mi ha già raggiunto Giacomo Maiasco, che tra poco saluterò, ho già parlato Zeman, ve lo faccio sentire in rapida sequenza. Uno Zeman 1. E ci siamo capiti, quindi io sono contento di poter continuare, sono contento che possiamo continuare insieme per il meglio della Roma e sono sempre a disposizione della società. Io penso che non ci sono rapporti cancerogeni con nessuno, e semmai c'erano in passato. E poi vediamo domani dopo la partita con il Cagliari anticipata, proprio perché c'è Italia-Francia domenica all'Olimpico. Zeman 2. Penso che la società l'ha preso come che io mi volevo tirare dietro, invece io mi voglio tirare avanti e voglio stare alla Roma altri 5 anni. È logico che me lo devo meritare. 5 anni mi sembrano tanti a quest'ora. Antonio Napoli, buongiorno. Sì, niente, volevo dire che praticamente noi ce l'aspettavamo che Balotelli passasse al Milan, noi interisti, perché ci stanno provando da quando Balotelli è arrivato all'Inter, proprio il primo giorno, quindi non è, rosichiamo un po', ma non è un problema, ce lo aspettavamo. Sì. Però volevo poi dire che non è un giocatore decisivo, secondo me, Balotelli, perché ha fatto pochissimi gol, anche se ha avuto moltissime possibilità. E poi l'ultima cosa, che penso che sia stato anche strapagato, perché 23 milioni non è pochissimo. 20 si dice, vabbè, poi ci sono i bonus legati ai risultati, eccetera, eccetera. Però adesso il Milan lo porta a casa con 4, le altre rate da 4 nei prossimi anni, e chissà cosa può succedere, magari arriva l'arabo giusto, magari arrivano tre altre tornate elettorali, chi lo sa. Intanto lo porta a casa per 4 milioni e a me sembra un discreto acquisto. Cioè, se il Parma chiede Quagliarella più Belfodil più 13, cioè chiede Quagliarella più Belfodil, no, chiede Belfodil, no, chiede Quagliarella più 13 per Belfodil, allora il Milan ha fatto un grande affare. Allora, allunghiamo il pallone perché c'è 6 nazioni. Giacomo Bagnasco, ciao, qui con me. Ciao, buon pomeriggio. Abbiamo anche Miss Rugby di Sky, Tania Zamparo. Buon pomeriggio, Tania, grazie. Ciao, grazie a voi. Come stai? Bene, grazie. Sei Mi pronta? Sento un pochino bassi. Ci senti bassi? Provvederemo ad alzare il livello delle cuffie. Allora, Giacomo Bagnasco, si parte domenica 15 all'Olimpico contro la Francia. Mi sembra dura. Partiamo con la Francia, è dura, è la squadra vice campione del mondo, è quella che ha fatto meglio fra tutte le europee nei test match di novembre, è una squadra senza punti deboli. Noi nel 2007 siamo partiti con la Francia, era la seconda stagione di un CT francese, Pierre Berbizier, abbiamo perso malissimo 39-3, ma poi è stato l'anno in cui abbiamo vinto 2 partite di seguito. Potremmo chiedere, se qualcuno se la sente, di firmare, di sottoscrivere una soluzione del genere con un altro CT francese, anche lui alla seconda stagione alla guida degli azzurri. Tu, Tania, che dici? Beh, dico che ricordiamo anche che 2 anni fa, giocando in casa con la Francia, non era la stessa Francia, una Francia un po' distratta, sì, di Livermont, c'era un altro allenatore, però abbiamo vinto, è stato un risultato davvero storico, per cui chissà, anche noi non abbiamo fatto proprio malissimo negli ultimi test match di novembre, e siamo stati lì per pareggiare per un soffio, se fosse entrata una punizione di Orchera avremmo pareggiato con l'Australia, che sono veramente dei maestri in questo sport, e dunque c'è stata una crescita e chissà, insomma, speriamo bene. Senti, i tuoi compagni di viaggio con Sky chi saranno? Che squadra sarà? Diego Dominguez, sì, che è il miglior marcatore della storia del rugby italiano, e Alessandro Moscardi, ex capitano tallonatore dell'Italia, e Andrea De Rossi, anche lui ex capitano dell'Italia e attualmente allenatore di rugby. Bravissimi, simpaticissimi, è una squadra che squadra vince, molto affiatata. Sì, squadra che vince non si tocca. Esatto. Giacomo, come vedi nel complesso queste 6 nazioni? Favorita chi è? Ma io metterei Francia leggermente davanti all'Inghilterra. Per una volta queste due superpotenze sembrano superiori alle altre, anche grazie a un bacino più ampio a cui attingere. Quindi davanti a un tasso di infortuni abbastanza rilevante, è chiaro che Inghilterra e Francia possono cavarsela meglio. E per quanto riguarda, se posso aggiungere una cosa che ha poco a che vedere con l'aspetto agonistico, ma ha abbastanza a che vedere col titolo di questa trasmissione, Tutti convocati, Carlo, Vorrei raccontare una cosa che probabilmente già molte persone sanno. Comunque domenica all'Olimpico sono stati convocati 600 giocatori o i loro eredi, cioè tutti gli uomini che hanno giocato nella nazionale italiana di rugby. Riceveranno il simbolo della presenza nella nazionale, cioè un cap. Verranno premiati nel salone d'onore del CONI, ma poi saranno tutti all'Olimpico e canteranno, stando in campo, l'inno nazionale. Farete vedere tutto, no Tania? Assolutamente, non faremo perdere nulla anche a coloro i quali non avranno avuto la possibilità di vedere la partita all'Olimpico di Roma e potranno gustarsi tutto il pre, il durante, il post su Sky Sport 2. Noi saremo lì dalle 15, quindi con un ampio prepartita per preparare il pubblico, poi naturalmente seguiremo questo inno speciale con tutti gli ex giocatori e loro eredi che prenderanno il cap e poi ci sarà la partita, intervallo, post partita, non faremo perdere davvero nessuna azione, nessun particolare di questo che oramai è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del rugby e non solo, anche perché le partite della nazionale appassionano anche coloro i quali tutti non sono degli esperti. Appassionano tutti. Senti, ma secondo te, Tania, riusciremo a far festa con qualcuno, a tuo parere, oltre che con la solita Scozia? Ci dobbiamo provare, chissà, magari riusciremo con l'Irlanda nell'ultima partita. So che è stata molto gettonata la partita con l'Irlanda e l'Olimpico ha esaurito i biglietti per l'Irlanda prima che per le altre due partite e chissà, magari anche tentiamo di crederci, come dai. Un obiettivo possibile, sì. Grazie Tania, un abbraccio, buon lavoro. Grazie a voi, ciao, grazie, un abbraccio. Ciao, grazie Tania Zamparo. C'è Francesco da Treviso, gli rispondiamo? Direi di sì, e poi è da Treviso. Scusa. Francesco? Buonasera. Sera, giorno. Dica. Buongiorno, sì, mi scusi, signor Carlo Genca. Niente, finalmente è arrivato a 6 nazioni e quindi speriamo bene, anche se non sarà facile. Volevo fare un augurio particolare a un giocatore di Treviso, a Zanni, che faccia bene. E così. E dopo non so se posso collegarmi fra rugby e calcio. Faccia quello che vuole. Prego? Faccia quello che vuole. Sul discorso di Conte degli arbitri. E quindi ricordando che non so se lei ha visto l'ultima partita del... Con la Lazio? No, l'ultima partita di rugby con l'indifferente, il posticipo Mogliano-Padova, l'arbitraggio di... No, non l'ho visto. Non l'ha visto. Allora, l'ho visto Giacomo, magari. Beh, veloce, perché stiamo per chiudere. Niente, allora, sì, che è un tutt'altro sport il rugby, non si possono fare confronti, quindi... Questo non lo scopriamo oggi, grazie a Francesco da Treviso, non lo scopriamo oggi, no? Sì, diciamo che l'ascoltatore ha ragione... non sta, voglio dire, all'appassionato di rugby fare troppi confronti, tutto sommato è chiaro che soprattutto per quanto riguarda il post partita, ecco, scene di contestazione di questo tipo non si possono vedere. Però l'ascoltatore ha ancora più ragione su un'altra cosa, nel fare un grande in bocca al lupo a Alessandro Zanni, che è veramente un'anima di questa squadra. Sì. Uno di quelli che gli anglosassoni chiamerebbero unsung hero, cioè un eroe di cui nessuno parla. Avremo tanto tempo invece noi per parlare di Sei Nazioni. Io ringrazio Giacomo Bagnasco, ringrazio Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo ciao, domani Mario. Alle 2. Ciao Mario, anche a te, insomma, caro Enrico Curro. Domani alle 2, ciao. Ciao Mari.